Cari amici di Radio Big World, sono Pietro Pancamo e stasera torno a parlarvi del collettivo Underground Distribuzioni Alternative, che è impegnato, come sappiamo, a costruire in Italia una rete di artisti indipendenti, ha persino dato alle stampe ultimamente un libro di novelle davvero suggestivo che si intitola Unghie e che si compone di racconti ora delicatamente introspettivi, ora screziati di inquietanti venature noir, e a scriverli sono stati proprio i fondatori del collettivo. Mi riferisco al regista Gregory Fusaro, già nostro ospite a dicembre, e al romanziere Maurizio Mozzoni. Quest'ultimo, che è in studio qui con me, è un educatore professionale, un blogger e un sindacalista che in arte dimostra una spiccata inclinazione per la narrativa di genere, ma anche per un umorismo graffiante, sapido e al tempo stesso pervaso da una forte carica di umana simpatia. Una simpatia di cui Maurizio, nell'autopresentarsi a voi, cari amici di Radio Big World, vi darà adesso un saggio esauriente. Ciao, sono Maurizio Mozzoni. Sono nato orfano nel lontano 1979. All'età di 6 mesi, per guadagnarmi da vivere, ho cominciato a fare gli spot come pannolino nella pubblicità della Lines. Qui ho incontrato la mia vera vocazione artistica. Dopo alcuni mesi fui tuttavia molestato dal simpatico ippopotamo blu che tutti quanti vi ricordate e fui costretto ad abbandonare il set. All'età di 13 anni sono deceduto e mi sono reincarnato in me stesso. Scrivo poesie, racconti, fino dai tempi del liceo. Il mio fine ultimo è quello di fare naufragare malissimo delle storie d'amore nate in maniera stupenda. Benché il mio sogno sia sempre stato quello di impersonare il colletto nella camicia di Maurizio Costanzo, nella vita ho trovato un vero sbocco professionale diventando uno degli oltre 10 miliardi di Bifidus Acti Regularis che tutte le mattine mandano di corpo Alessia Marcuzzi. Nel 2015, insieme a Gregory Fusaro, abbiamo fondato il collettivo Underground, un collettivo artistico creato per cercare di mettere in rete le varie esperienze di artisti giovani, emergenti e meno giovani e meno emergenti della città di Milano, poi della Lombardia e poi tutta Italia. La verità è che dovevo molti soldi a Gregory che mi ha pagato per anni le sbronze di birra e a questo punto non potevo più fare niente di diverso. Comunque da allora vivo attaccato ad un grammofono, caldo d'estate, gelido d'inverno. Da questa collaborazione è nato il nostro primo volume, Unghie, che è una raccolta di racconti che stiamo in questo momento pubblicizzando in giro per il mondo, soprattutto per Marte. Il problema veramente grosso di cui volevo parlarvi è che sono ancora prigioniero. Gregory mi libererà solo e soltanto quando arriveremo a vendere più di 1 milione di copie. E quindi comprate il nostro libro, parlate del nostro libro, discutete del nostro libro, fate gruppi di lettura sul nostro libro, altrimenti io sarò prigioniero per sempre. Thank you. Bene, dopo averci parlato di sé con autoironica simpatia, Maurizio è ormai pronto a leggerci una delle novelle che ha scritto per la raccolta Unghie. Come si intitola questa novella? Un discreto scrutare. Lo osservava da tanto tempo. Era cominciata per gioco, almeno così le sembrava di ricordare. Non sono certo quelle cose che uno pianifica. Un po' come quando cammini per la strada e sei travolto da un'auto. Poi magari si dice la solita frase, un po' me lo sentivo, ma si sa che non è vero. Aveva cominciato ad osservarlo, all'inizio quasi stupita. Niente di eccezionale, niente di notevole, solo un vecchio che passava le sue giornate nell'appartamento di rimpetto al suo, al quarto piano di una palazzina anonima, di una strada anonima. Non si era mai nemmeno preoccupata di attraversare la strada per andare a sbirciare i citofoni e capire come si chiamasse. La sua immaginazione aveva supplito alla mancanza di un nome. Ogni mattino, quando cominciava la sua osservazione, lo poteva chiamare in modo diverso. Buongiorno, signor Mambretti. Oggi si chiamava Ovidio Mambretti. All'inizio le sedute di appostamento erano piuttosto brevi, addirittura casuali. Non voleva ammettere con se stessa che stava nascendo in lei una specie di ossessione per quel vecchio gracile con la pelle giallastra e l'appetito da uccellino che aveva nidificato davanti a casa sua. Col passare del tempo, però, le cose erano cambiate. Aveva dato un metodo alle sue osservazioni. Si posizionava alla finestra della camera da letto, quella che dava la miglior visuale, sin dalle prime ore della mattina. Se all'inizio lo osservava per non più di mezz'ora, col passare del tempo era arrivata a seguirne le mosse per 4 o 5 ore, nel weekend anche per 6. Non aveva ancora avuto la presunzione di fare ipotesi sul motivo della sua ossessione. Aveva organizzato la sua vita intorno al suo vecchio signore. Osservare, lavorare, tornare a osservare, avere una vita sociale, tornare a osservare, bere, mangiare, scopare, farsi scopare, tornare a osservare. Da un po' si era accorta che la sua occupazione stava prendendo il sopravvento su molte piccole preoccupazioni secondarie. Osservare il signor Costantini non era più una occupazione della giornata, era l'occupazione. A volte si stupiva semplicemente delle stereotipie del vecchio, osservava un movimento, cercava di prevederne tutti i successivi. Se ci azzeccava, si complimentava con se stessa. Diversamente, si perdeva in congetture sui motivi per i quali la serie di azioni ripetute si era interrotta. A volte, e nell'ultimo periodo accadeva sempre con maggior frequenza, le sue fantasie prendevano il sopravvento. Si immaginava seduta nella casa modesta, sentiva l'odore di mobili vecchi e di cibi mal cucinati, pensava di diventare parte del suo mondo, alla stregua di un soprammobile. Una cosa presente ma ignorata. Avrebbe voluto stare nella casa come una presenza nota, avrebbe voluto che lui sapesse di lei, che sentisse il disagio a sapere che qualcosa lo osservava con tanta cura e meticolosa precisione, ma che contemporaneamente fosse invisibile ai suoi occhi, scontata come la vecchia gondola in plastica dorata buttata sulla mensola di un mobile della sala. Di notte era anche peggio, quando le finestre erano nere e non c'era nulla da osservare. Le veniva in mente che il gioco, come tutti i giochi, sarebbe durato poco. Più prima che poi, le imposte la mattina non si sarebbero aperte, Oppure le luci a notte fonda sarebbero state ancora accese. Lo avrebbero portato via con l'ambulanza. Magari sarebbero arrivati dei parenti, dei figli. L'imperturbabile routine dei giorni sempre identici sarebbe finita. Non ci sarebbero stati più pronostici, vaticini. E allora pensava che non era assolutamente giusto che tutto questo accadesse al di fuori del suo controllo, al di fuori delle sue previsioni. Era solo questione di tempo. Sapeva che prima o poi sarebbe suonato un campanello nella sua testa e lo avrebbe fatto. Avrebbe controllato fino alla fine, fino all'ultimo. Quando la fecero sedere sul sedile di dietro dell'auto, era pienamente soddisfatta. Lui aveva aperto la porta a quella signora che aveva già visto diverse volte oltre i vetri della casa di fronte. Come previsto, l'aveva fatta entrare. Come previsto, le aveva voltato le spalle. Come previsto, il suo collo si era spezzato come un legno secco. Tutto come previsto, era diventata davvero molto brava. E dopo questa novella, che per l'asciuttezza del periodare e la cinica finezza dell'indagine psicologica richiama senz'altro alla mente i racconti di Ed McBain, non mi resta che ringraziare Maurizio Mozzoni, ma indirettamente anche Gregory Fusaro, e ricordare agli estimatori della buona narrativa che la raccolta Unghie può essere acquistata in formato PDF su lulu.com oppure in formato cartaceo rivolgendosi all'indirizzo undergroundmilano@gmail.com. Bene, cari amici di Radio Big World, per stasera è proprio tutto. Pietro Pancamo vi saluta con affetto e gratitudine e vi dà appuntamento al mese prossimo.